A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, ma fino a un certo punto, perché oggi è un giorno di lutto per il Giro d'Italia e dunque lo è per chiunque abbia a che fare, vicino o lontano, con il mondo dello sport in generale. La morte di Vineland ha inevitabilmente trasformato un giorno di festa, come sono tutti quelli del Giro nelle località attraversate, in un giorno di lutto dedicato alla memoria di questo sventurato corridore belga. Giornata che si svolgerà da un punto di vista sportivo, e non solo sportivo, secondo certe modalità che scopriamo adesso attraverso le parole del direttore del Giro d'Italia, Angelo Zomegnan, subito dopo la nostra sigla. Voci dal Giro. Buongiorno, i sentimenti di questa mattina sono fortunatamente migliori dei sentimenti di ieri sera, quando a Malpensa abbiamo accolto la moglie, dovendola chiamare vedova, il papà e la mamma e i familiari di Voter. Passato la notte a parlare con i corridori e i direttori sportivi e siamo tutti d'accordo su un fatto, che nella vita ci si ferma soltanto quando non si sa dove andare. Il Giro sa dove andare e andrà verso Livorno con una tappa atipica, senza cerimoniali, senza musica, tenendo i toni bassi, partendo con il silenzio della fanfara dei bersaglieri, per entrare nei viali del Gaslini e rendere un attimo di serenità a quei bambini che sono ospitati lì, per poi andare verso Livorno con una tappa in cui ognuna delle 22 squadre tirerà per 10 chilometri ad un ritmo accettabile per non deludere le aspettative e la gente, in modo da arrivare all'ultimo chilometro con la squadra del leader, di David Miller, che lascerà spazio alla Leopard. Solo stamattina i ragazzi di Leopard, i compagni di squadra di Voter, hanno deciso di correre. Sono ovviamente tristi, ma hanno capito che il cordoglio generale della carovana è addirittura superiore al loro dolore e quindi partono. Era una signora in lacrime e quei minuti che abbiamo passato davanti al nastro trasportatore numero uno dell'aeroporto di Malpensa in attesa del suo trolley sono stati veramente un'eternità. Ho soltanto detto che portavo il cordoglio di tutti noi, di tutto il Giro, ma anche di tutti gli italiani che sono rimasti impietriti ieri sulla strada e davanti ai telegiornali. Ha sempre pianto e da pianto sino a quando siamo arrivati a Rapallo, dove sono stati familiari ospitati nello stesso albergo della squadra, e sta piangendo ancora. Angelo, io ti ringrazio perché so che questa testimonianza ti è costata fatica, come forse ti costerà fatica fare il tuo lavoro oggi. Al palco firme i corridori stanno facendo il loro dovere, questo è quanto il Giro d'Italia sta dedicando con amore, con affetto, con riconoscenza a questo ragazzo che non c'è più. Grazie Angelo. Grazie a voi per i toni che state usando, che mi auguro siano gli stessi fino alla fine di questa giornata, che è tesa anche ad arginare qualche sciacallaggio mediatico di troppo. Voci dal Giro. Beh, questa era una voce che insomma, avremmo preferito non ascoltare, no? Perlomeno non ascoltare in un racconto di questo genere, che era tratto, come avete capito, dall'intervento ufficiale che stamane Angelo Zomegnan ha fatto a Rai 3, alla rubrica condotta dal nostro amico, tra l'altro, Marino Bartoletti. Io credo che, come si è ben ricavato dalle dichiarazioni di Zomegnan, a parte questo suo racconto sullo strazio della vedova, il problema non sia tanto il comportamento di oggi, che è già codificato e che è stato accettato, ma anzi voluto da tutti. Il problema sarà come comportarsi domani, come ripartire per quella quinta tappa Piombino-Orvieto, con quale spirito, con quale atteggiamento mentale e di conseguenza agonistico. Chiudiamo qui questa pagina del triste, funerea purtroppo, che riguarda Il Giro d'Italia, apriamo quella del pallone, abbiamo rinviato per ragioni tecniche e di spazio l'appuntamento con Classico del martedì con l'Europa e con Fabio Tadelli, perché c'era questa lunga parentesi sul Giro, che non è detto che non si possa, non si debba riaprire più tardi per altri aggiornamenti, ma anche perché ieri sera sono arrivati altri due verdetti, uno ufficiale che riguarda il Chievo, l'altro no, che riguarda la Juventus, ma sono arrivati altri due verdetti che riguardano il campionato, e poi perché siamo anche alla vigilia di due semifinali di Coppa Italia. L'appuntamento con Fabio Tadelli e il calcio internazionale è rinviato a domani. Oggi comincerei subito da una notizia di agenzia appena battuta, che sono le tre giornate di squalifica a Cavani, centravanti del Napoli. Cavani dunque, nella migliore delle ipotesi, non giocherà più in questo campionato; nella peggiore, se un eventuale ricorso non verrà accolto, non partirà nemmeno alla prima giornata del campionato che verrà. Questo significa un danno per il Napoli, e questo era prevedibile, ma significa anche che è arrivato un altro verdetto, oltre a quelli di ieri sera, e cioè che Totò Di Natale è capocannoniere del nostro campionato per la seconda stagione consecutiva. Non solo, ma con una ricostruzione statistica davvero affascinante. Pensate che erano 60 anni ed era quindi dai tempi di Gunnar Nordahl, il mitico centravanti del Milan svedese anni 50, detto il pompierone. Era dai tempi di Nordahl che un giocatore non segnava così tanti gol in due stagioni consecutive. Allora Nordahl ne segnò 35 nel 49-50 e 34 l'anno successivo, quindi arrivò a 69 gol. Però sinceramente questi 57 lì di Natale a me sembrano tantissimi, a parte il fatto che era dal 92-93 che un giocatore non rivinceva la classifica cannonieri dopo averla vinta l'anno prima. Allora fu Signori, Beppe Signori con la Lazio, 26 gol il primo anno e 23 il secondo. Stavolta è Totò Di Natale, 29 il primo, 28 il secondo, per ora, con due partite ancora da giocare contro il Chievo e contro il Milan. Mi sembra il miglior riconoscimento questo parallelo con Nordahl alle qualità balistiche di questo grande giocatore, che insomma, poi tutti gli intrecci, no, ci sono, visto che un verdetto è arrivato stamane, sia pure indirettamente, uno è arrivato ieri sera, un giocatore che, non dimentichiamolo, l'estate scorsa ha rifiutato proprio la Juventus. Allora ripartiremo tra poco, dopo il primo intervallo, proprio dall'ennesima giornata amara della squadra bianconera, che insomma, ha già suscitato commenti di ogni genere, e poi lentamente arriveremo a una pagina non amara ma disgustosa, che è quella dei cori intonati da Gattuso o assecondati da Gattuso nei festeggiamenti o presunti tali di sabato sera all'Olimpico, e che hanno nel frattempo fatto molto rumore, ma stanno provocando reazioni ufficiali, perché Leonardo ha appena dichiarato, e questo è un ultimo ora davvero: i cori di Gattuso, vorrei conoscere la posizione ufficiale del Milan in materia. Partiamo dal lato positivo. Il Chievo è salvo, lo era quasi ufficialmente già prima, perché insomma c'era in ballo soltanto una differenza reti con la Sampdoria, ma insomma il Chievo avrebbe dovuto perdere le ultime tre partite, la Sampdoria vincerle e le ultime due partite, e segnando una caterva di gol e non subendone, quindi era fantascienza. Ma in ogni caso, con il punto di ieri sera, il Chievo è salvo per davvero. Sentiamo il commento su questa salvezza del suo allenatore Pioli. Il Chievo mi ha ridato una possibilità di tornare ad allenare in Serie A dopo l'esperienza negativa che ho fatto qualche anno fa a Parma, e quindi poter centrare l'obiettivo che la società e tutto l'ambiente si era prefissato all'inizio stagione con una prestazione del genere è sicuramente un grande risultato. Devo assolutamente ringraziare i giocatori, perché sono stati di una disponibilità, di una partecipazione al lavoro eccezionale, e la società che ci ha permesso di lavorare in condizioni ottimali, direi. Una mail che arriva da Parma, che è firmata Davide Sani e che parla del Chievo e che dice: La soddisfazione che prova il mondo Chievo nel restare a pieno merito in Serie A penso sia impagabile. Con un budget che servirebbe a pagare il solo stipendio di Ibrahimovic, si permette di festeggiare 10 stagioni di Serie A in 11 anni. Apro e chiudo una parentesi. L'unico anno in cui il Chievo retrocesso aveva giocato i preliminari di Champions League, e questo temo sia un altro riferimento negativo per la Sampdoria. Gestione familiare, ha mai visto lei il centro dove si allena le squadre del Chievo? È favoloso? Sì, l'ho visto, grazie. Ma poi mi piace questa conclusione di questa lettera di Davide Parmigiano. Ho giocato gli ultimi anni di una onorata carriera a dilettanti in una società di prima categoria, in una piccola frazione del Parmense. Le partite casalinghe le giocavamo nel comune vicino, non avendo il campo omologato. Per rinforzare la squadra c'erano due feste da ballo estive organizzate dalla società. Dovevamo sperare nel bel tempo per aver due lire da spendere per iscriverci al campionato, ma ci siamo permessi di vincere contro squadre che rappresentavano paesi del Piacentino e del Parmense di migliaia di abitanti e con decine di milioni di lire di allora di costi di gestione e di sopravvivere inspiegabilmente per gli altri nella categoria. Con le dovute proporzioni, quando penso al Chievo mi piace credere che anche loro provino queste stesse emozioni che gustammo noi in quegli anni ad ogni salvezza acquisita. Bravo Davide, questa è davvero una bella riflessione. E ovviamente la presa leggermente diversa sull'altro fronte, sentiamo del Neri. Noi abbiamo la maturità, probabilmente questo momento lì, per mantenere un grande equilibrio di serenità anche quando prendiamo un gol. Abbiamo fretta di fare, siamo tesi soprattutto in questo momento. Probabilmente paghiamo dazi, abbiamo sfortuna, un po' di tutto, insomma, per la squadra insomma, è stata abbastanza disattenta a queste due situazioni lì, però dopo è stata anche un po' penalizzata da situazioni che magari potrebbero essere sfruttate meglio. Ma quando uno prende un gol in 2 minuti, non penso sia problemi strutturali, la squadra tiene bene, perché anche oggi ho fatto una prestazione secondo me buona, ha prodotto palle gol a sufficienza per chiamarsi Juventus, ha sofferto un po' il Chievo per una squadra buttata al contropiede, secco, con grande velocità, però poi nel computo di analisi dei gol sfiorati o dei gol subiti mi sembra che Chievo abbia fatto 2 gol su calci piazzati, non ha fatto gol su azioni fatte. Beh, insomma, diciamo che è un'analisi, come dire, che guarda al bicchiere mezzo pieno, no? Ma di mezzo pieno in un pareggio casalingo, il secondo consecutivo per 2-2 partendo dal 2-0, non mi pare ci sia molto, soprattutto c'è una frase abbastanza inspiegabile. Il Chievo ha applicato il suo contropiede in cui è, non so cosa si è detto, bravissimo, diciamo pure anche micidiale. Vabbè, ma come fa a applicare il contropiede sul 2-0 per la Juve? Cioè vuol dire che la Juve è messa male in campo, insomma, vuol dire che c'è qualcosa che non torna. Ci sono molti ascoltatori che premono per intervenire. E allora cominciamo da Salvo, provincia di Macerata. Buongiorno. Giornalisti con la G maiuscola, dico io. Comunque, bando a queste cose, grazie per la trasmissione. E oggi è un giorno di lutto, come ha detto lei prima, e non vorrei dilungarmi perché è morto un ciclista. Le bici, dico io, sono sempre più perfette e più veloci, le strade sono sempre quelle strette, e quindi lascia la vita una persona di 26 anni. Ma vengo alla cosa per cui ho telefonato: vorrei esprimere il mio disgusto e la nausea per un calciatore che è stato poi in nazionale. Ha avuto lo scudetto nella mediocrità di quest'anno, però ha avuto il cattivo gusto di fare quelle scenate e non so come mai ancora la federazione non intervenga, e vorrei vedere cosa succede, perché questo è dopo il gesto di Ambrosini alcuni anni fa, quindi la cosa ripetita. Salvo, lei si riferisce evidentemente a Gattuso. Io non credo che la stessa società Milan, credo che sia rimasta abbastanza spiazzata da questo comportamento. Primo perché è un comportamento da cafone allo stato puro, che non appartiene allo stile del Milan, ma allo stile credo di nessuna società che voglia per l'appunto comportarsi in una maniera appena accettabile e che pretenda giustamente che i suoi tesserati si comportino in maniera accettabile. Gattuso tra l'altro quest'anno era recidivo perché già aveva sporcato l'immagine rossonera in Europa e nel mondo con quel comportamento disgustoso nei confronti di Giorna, che gli ha fruttato, se non ricordo male, 5 giornate di squalifica in Coppa dei Campioni. Stavolta io credo sia andato anche oltre, perché c'è un aggravante. Ma forse di questo poi parliamo, visto che temo sarà un argomento ricorrente in questa puntata. Io prima, per far capire di che cosa a chi non è al corrente della vicenda, io stesso sino a ieri nel tardo pomeriggio non lo ero, perché sinceramente i festeggiamenti da qualsiasi parte vengano consumati di fine stagione sono abituato a risparmiarli, e quindi ho spento immediatamente finita la partita. L'aggravante di questa cosa è che per questo link tra i giocatori e la curva, era passato del tempo, cioè i giocatori erano rientrati in campo, tutti i romanisti erano sfollati dall'Olimpico, era rimasta solo la rappresentanza rossonera sulle tribune, e quindi era passato del tempo, e quindi pur in un'atmosfera festosa, galvanizzata e tutto quello che vogliamo, diciamo che eravamo a mente fredda. E allora sentiamo questo delizioso coro che Gattuso ha, non si sa bene se è intonato, certamente diretto e certamente assaporato con piacere. Penso possa bastare come documentazione audio radiofonica, perché poi c'è un video in cui che ha già fatto il giro del mondo, perché così almeno ci aiuta, no, a farci riconoscere in giro. Stiamo sempre parlando di un ex campione del mondo come Rino Gattuso, campione del mondo da protagonista, tra l'altro non da comprimario come quest'anno nel Milan, in cui Gattuso fa il direttore d'orchestra, è completamente assatanato, la sensazione è che sia lui ad arringare la folla e non il contrario. Accanto a lui c'è Abate, ma Abate si ferma immediatamente, cioè si capisce immediatamente che Abate quando realizza che cosa stanno cantando e cosa stanno urlando, si irrigidisce, trova il modo di smarcarsi, e in ogni caso, non appena ieri queste immagini sono finite su YouTube, Abate ha telefonato all'allenatore dell'Inter spiegando alla Gazzetta: con me si è sempre comportato in modo stupendo, io non posso che parlarne bene, se il caso ora viene fuori sui giornali pazienza, mi interessa fino a un certo punto, ma volevo spiegarmi con Leonardo e l'ho fatto subito. Gattuso invece ha raccontato sempre alla Gazzetta: ho fatto 10 cori, chissà come mai parlate solo di quello. Beh, non lo so di quali dovremmo parlare, ma in ogni caso siamo sempre pronti ad accezzare lezioni di giornalismo da un maître à penser come Gattuso. Non ho cominciato io, certo, gli sono andato dietro per un po'. Devo chiedere scusa per aver seguito un coro, ma io credo che se non lo capisce da solo e se qualcuno è costretto a spiegarglielo, temo che la società Milan, spero che la società Milan, qualcosa debba appunto incaricarsi di spiegare, perché quando non ci arrivi da solo forse è il caso che qualcuno ti dia una mano a capire. Marco in linea da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Sì, l'intervento ovviamente era diverso e lo farò in seguito se mi date la possibilità. No, vada pure su qualsiasi argomento. Il tempo è poco. Brevemente, non posso esimermi ovviamente da fare un commento di questo coro. È chiaro che a volte l'euforia di Novattuso è un uomo e si deve dar valore all'estrazione sociale. Non dico che, però per lui evidentemente l'essere uomo del sud eccetera, evidentemente aveva avuto un rapporto privato con Leonardo un po' particolare, e lui si è sentito di accompagnare questo coro, che poi non lo abbia fatto o dettato lui o orchestrato o diretto, si è accodato nell'euforia, nella gioia, a caldo. Tenga conto che dopo il gol di Pato nel derby non si era accodato nessuno, era schizzato lui verso la panchina dell'Inter urlando la stessa cosa a Leonardo in pieno transfer agonistico, non discuto, ma qui era passata una mezz'oretta, ripeto. Poi? Scusi se la interrompo, ritengo allora che il commentare, o meglio punire laddove le autorità competenti, sportive e non societarie, private o di federazione, punire ma non commentare più di tanto, cioè l'UEFA non riprende più gli scontri sulle tribune degli steward, tentiamo di smorzare pacatamente questa cosa, se ci saranno conseguenze ci siano serie, perché un addetto ai lavori, un professionista, un diretto addetto ai lavori che Marco, qual è un Marco, giocatore. Io la ringrazio del suo intervento, sono passati due minuti circa, la ringrazio, il suo concetto è chiarissimo, la sua, come dire, la sua eloquenza sia pure molto più appropriata nel linguaggio, però è dello stampo lotito, no? Come dire, quindi si va lunghi, c'è non le dico quanto pubblico, quanti ascoltatori chiedono di intervenire a loro volta e oltretutto noi abbiamo certi obblighi. Per esempio è tempo, già in lieve ritardo, di dare la linea a chi deve aggiornare i mercati. È una valanga autentica di messaggi e di richieste di intervento che si è scatenata per questa prodezza di Gattuso e credo che da qui alla fine non sarà molto facile arginare questa ondata. Volevo soltanto proporvi una riflessione allora, che era su un altro argomento. Beh, insomma, su Juventus Chievo chi vuole intervenire interviene. La riflessione è questa, arriva da Emanuela Mino, una mail che dice: volevo sapere cosa pensi dell'idea, secondo me assai poco felice, di far giocare tutte le partite dell'ultima di campionato la sera alle 20:45. Con tutti i rischi, perché ci sarà chi festeggia e chi invece sarà un po' arrabbiato, delle partite in notturna. Io sono un tifoso milanista e vorrei andare a Udine per assistere, penso, a una partita spettacolare, ma visto l'orario arriverò a casa, abito a Como, non prima del lunedì mattina. Io condivido in pieno sia dal punto di vista dei pericoli che dal punto di vista dei disagi. Non trovo questa necessità, cioè non capisco la ratio che suggerisce di far giocare alle 20:45 l'ultima partita. Grazie per la contemporaneità, grazie cara Lega nel senso di Lega Nazionale Calcio di Milano, grazie cara Lega per aver dato la contemporaneità almeno nell'ultima partita, e solo in quella, perché non esageriamo, ma non si vede perché la sera, sinceramente. Ha chiamato per esempio Stefano da Udine, buongiorno. Sì, buongiorno. Io esprimo solo una grossa delusione da milanista per come si è comportato Gattuso, per due motivi. Uno è quello che ha detto lei prima, questo è un ex campione del mondo che bene o male ci rappresenta. Due, non dimentichiamoci che lui, Materazzi, Ambrosini gli anni prima, tutte quelle belle scenate lì, sono fatte da gente, scusi il termine, milionari, che, oh mio Dio, stanno facendo fanno di un gioco il loro lavoro e sono super pagati. Lo ritengo una grossa mancanza di rispetto nei confronti di tutta la gente onesta che comunque lavora, che li segue, e che bene o male, se loro hanno questo stile di vita, lo devono anche a chi li segue. Tutto sì, io ma guardi, però Stefano, io sinceramente più che il denaro e più che chi li segue eccetera, perché poi chi li ama li segua pure, no? Almeno dal mio punto di vista, non è quello. Io sto pensando ai bambini, sto pensando ai ragazzi, sto pensando a quelli che crescono, sto pensando a quelli che vanno a comprarsi le loro magliette attraverso il marketing, sto pensando, ma senza fare alcuna retorica, ma soltanto ripassando i fondamentali proprio dell'educazione, sto pensando al fatto che questi sono uomini pubblici che non solo hanno un seguito ma sanno di averlo, e quindi il comportamento, un minimo di responsabilità di comportamento è inevitabile, e se non c'è il minimo sindacale è inaccettabile il loro atteggiamento dal punto di vista dell'educazione e del modello che rappresentano, purtroppo. Luigi Brescia, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, ascolti, io chiamavo fondamentalmente per esprimere chiaramente il mio dolore per quello che è successo ieri durante la tappa del Giro d'Italia, per spezzare una lancia se mai servisse contro, a favore di Stebis Trattato Sport. Lei lo diceva ieri, non ha un grande feeling con questo ciclismo moderno, però io vorrei ricordare a tutti, purtroppo, perché si sentono tante persone che non hanno più un grande feeling con questo ciclismo moderno, ma purtroppo è la rappresentazione, credo, un pochettino della vita, cioè comunque al di là di tutto il doping di cui possano o non possano far uso, in ogni caso quei ragazzi qua si sciroppano delle distanze, delle fatiche che i calciatori e comunque la maggior parte degli sport, se non la totalità degli sport, si sognano col binocolo. Cioè gente che arriva a fine dell'anno con 35-40 mila chilometri in bicicletta, la maggior parte di noi non li fa neanche in macchina. Uh-huh. E quindi la tristezza è per quello, perché spesso si identifica solo il ciclismo con il doping e non invece con la grande fatica come dovrebbe essere, e con lo spirito di sacrificio che è straordinario, che comunque uno sport di questo tipo richiede, nell'andare a letto presto, nel non strapazzarsi, certo. In tutte queste cose, ecco, certo. Solo quello. E poi da esulo un momentino da Bresciano, mi dispiace molto per il mio Brescia, ma comunque ecco, faccio complimenti all'Atalanta. Grazie Luigi, grazie Luigi, grazie. Aldo, provincia di Siena, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Io so benissimo che andrò controcorrente e che a lei non andrà bene, però volevo ricordarle una cosa. Siccome io sono milanista, e in un derby mi ricordo molto bene che il signor Muratti apostrofò due o tre volte Ronaldo con la frase che Gattuso ha detto a Leonardo, cioè Ronaldo di merda, gli fece tre o quattro volte il gesto con l'ombrello. Francamente non ricordo una sua trasmissione impernata su questo argomento. Perché ha cattiva memoria lei, Aldo, perché credo di essermi esibito a ripetizione su quel gesto. Diciamo che ho guastato anche degli antichi rapporti di cui in quel momento non mi importava nulla, perché il dovere di critica viene prima di qualsiasi altra cosa. Dissi e scrissi anche che un presidente di una società di calcio, tanto più di una società di calcio di primaria importanza come l'Inter, non può permettersi di quegli atteggiamenti e non può ignorare oggi, anche se capisco che sia abbastanza difficile, non può ignorare di essere inquadrato in qualsiasi istante. Noi oggi viviamo, uno stadio è diventato uno studio da Grande Fratello, questo chiunque giochi, ma anche chiunque assista sulle tribune e sia persona appena conosciuta, non può più ignorarlo. Dunque in occasione di quel derby in cui Ronaldo giocava per la prima volta con la maglia del Milan, si comportò veramente in una maniera indegna di un presidente, e soprattutto di un presidente di una squadra, ma indegna di un presidente tout court, e basta così. Detto questo, quel giorno, non per stabilire delle graduatorie o delle cose, Moratti si comportò in maniera ineducata, volgare, ripreso da una telecamera di cui per un attimo si era dimenticato, colpevolmente, perché non si può più ignorarlo, ma voglio dire, è leggermente diverso, credo, il caso di un giocatore che invece ha freddo, di un capitano del Milan, vice capitano, perché il capitano ufficiale è Ambrosini, ma quest'anno ha indossato la fascia più volte, per esempio la sera della scenata con Jordan, era capitano, esce a freddo, dopo mezz'ora o tre quarti d'ora di spogliatoio, esce e va a orchestrare e a dirigere quel coro. Io lo trovo sinceramente peggiore come comportamento, e soprattutto colgo la recidività di questo gesto. Perché dopo appunto già averglielo cantato, averglielo urlato in faccia dopo il gol di Pato nel derby, dopo l'atteggiamento tenuto con Jordan, quest'altra prudenza, io credo siano il segnale che un giocatore che mi era simpatico come pochi, ma simpatico davvero sul piano umano, a pelle, per quel suo essere grillo parlante, ma in maniera sempre ruspante, in maniera sempre spiritosa e divertente, mi pare sia in una fase involutiva di comportamenti davvero molto gravi, che secondo me dovrebbe far riflettere la società. Cristian, provincia di Torino, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie mille per la possibilità di parlare, ovviamente complimenti alla trasmissione. Dunque io due riflessioni, se sarò abbastanza sintetico le farò entrambe, altrimenti comincio con le... Bravo. Sono assolutamente d'accordo con lei per quanto riguarda Gattuso e il fatto che questo sia stato premeditato, nel senso che comunque il discorso di essere lucido e aver fatto il tutto 30 minuti dopo la conclusione significa che ce l'avevi proprio lì, no? Che avevi voglia di farlo. Riflessione questa, allora, ormai il calcio è un lavoro, le società sono delle aziende e i calciatori sono dei... Io nella mia azienda, se faccio un discorso di questo tipo, non dico che perdo il lavoro, ma sicuramente vado incontro a delle gravi conseguenze disciplinari, insomma. Io ritengo che in questo caso veramente la presentazione della società dovrebbe essere esemplare, visto che comunque appunto l'accuso è recidivo e quindi non solo mette in discussione la propria professionalità, ma soprattutto l'immagine della propria società e della propria azienda. Quindi certo, dovrebbe sicuramente essere punito in maniera severa. Non dico da perdere il lavoro, ma mi piacerebbe. Ecco, voglio dire, perché sarebbe anche ora che le società dessero veramente dei segnali forti, perché i calciatori non possono fare quello che vogliono, soprattutto in Italia. Sì, certo. Io ritengo che questo atteggiamento sia una cosa tipicamente italiana. Cristian, la ringrazio. La ringrazio davvero, il suo concetto è molto chiaro. Lo rafforzerei con una mail che è arrivata da Stefano Nanni, da Ravenna. e che dice: se l'immagina lei il giorno in cui Trapattoni passò dalla Juventus all'Inter, se l'immagina Zoffo o Scirea che dalla curva del Comunale di Torino intonano Trapattoni uomo di merda perché è andato a allenare l'Inter. 14, 45, 30 secondi, ma qui addirittura Stefano Nanni ha esagerato, perché Zoff e Scirea erano due signori, ma signori con la S maiuscola di sopra di ogni sospetto, che rendono poco credibile, no, tutto sommato, questo paradosso. Parliamo di Gentile, parliamo di Tardelli, cioè parliamo di gente più ruspante, di gente che aveva in campo il temperamento di Gattuso e che ogni tanto magari poteva anche trascendere, e misuriamo l'abisso di educazione che c'era tra quei campioni e uno come Gattuso. 14:56 e 46 adesso, e dunque le strade. Proviamo a sentire che cosa è successo grazie a Nicola Filippone in un giorno 10 maggio. Sembra ieri. 10 maggio 1962. Glasgow, Hampden Park. La Fiorentina di De Guti prova a vincere la seconda Coppa delle Coppe consecutiva, sfidando in finale l'Atletico Madrid. Gli spagnoli passano in vantaggio dopo 11 minuti con Peiró, che si sarebbe in seguito trasferito in Italia per giocare nel Torino, nell'Inter e nella Roma. I viola però sanno reagire e pareggiano il conto dopo poco più di un quarto d'ora con il solito Amrin. Il risultato non si schioderà più dall'1-1. Il regolamento non prevede né supplementari né rigori. La gara deve essere quindi ripetuta. Per conoscere la squadra vincitrice della Coppa delle Coppe 1962 bisognerà attendere addirittura l'inizio della stagione successiva. Il 5 settembre a Stoccarda l'Atletico Madrid si imporrà per 3-0 sulla nuova Fiorentina di Valcareggi. Gattuso, scrive Alfonso Di Carlo, sta cercando un alibi per andarsene via perché l'offerta russa è più allettante di quella milanista. Non c'entra assolutamente nulla. Io, proprio questa è una riflessione, cioè non ha senso. Vorrei ricordare il presidente Ibrahimovic che minacciò in diretta Sacchi, e il Milan con una certa corardia non prese posizione, scrive Emiliano Lema da Torino. Io credo che queste due, anche quella vicenda fu abbastanza sgradevole, ma è completamente diversa da questa, anche perché questa chiama in causa il saper vincere, che è un altro parametro dell'educazione sportiva, non meno importante, forse più importante del saper perdere, e credo che sia una riflessione che va fatta. Lo stesso Ambrosini 4 anni fa, dopo l'ultima Champions, tracimò, sbracò, no? dal carro dei vincitori che stava sfilando per le vie di Milano, però il giorno dopo si scusò. La certezza, anche perché ci sono dichiarazioni in tal senso, che Gattuso non ha alcuna intenzione di scusarsi, anzi ha rincarato la dose dicendo che un giorno racconterà il perché di tutto questo livore nei confronti di Leonardo. Torniamo su un altro argomento che mi sembra tutto sommato forse meno appeal, ma ha più sostanza tecnica, perché c'è una frase di Marotta su Del Neri, voi ricorderete bene che Marotta e Del Neri arrivarono alla Juve lo scorso anno dalla Sampdoria quarta, che aveva conquistato la Champions League, non dico come dei siamesi, ma insomma con un legame molto, molto forte, tecnico e anche umano. Sentite Marotta su Del Neri dopo il pareggio di ieri sera. Ma che Del Neri ha detto giustamente quella che è la realtà, cioè il fatto che lui ha un contratto sino al 2012, quindi giustamente si ritiene allenatore della Juventus anche l'anno prossimo. È chiaro che noi comunque stiamo lavorando per dare un incremento di qualità all'area tecnica, e quindi faremo al momento opportuno le nostre esternazioni mediatiche. In questo momento stiamo lavorando, facendo giustamente le nostre riflessioni. Giustamente si ritiene l'allenatore della Juventus, se non è una presa di distanza è questa, non so quale possa esserla. Poi magari il tempo dirà qual era o qual è stato lo spessore tecnico di Del Neri e quale quello di Marotta, no? Per le rispettive competenze. Paolo, provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno signor Granzini, complimenti per la trasmissione. Senta, essendo uno juventino ormai sconsolato dalle ultime campagne acquisti e i risultati sportivi della Juventus, vorrei dare un'opinione sul valore del giocatore Aquilani, perché se ci fossero delle statistiche che prendono in considerazione il numero dei passaggi fatti corretti da quelli sbagliati, quindi palle perse, secondo me è tra i peggiori centrocampisti della Serie A. Attendo da lei una risposta ascoltandola, grazie. Adesso tra i peggiori no sicuro. Insomma, Aquilani ha anche un modo di giocare che è un pochino più rischioso di altri, perché insomma c'è il genere di centrocampista che, come dire, che la dà al più vicino, no? Adesso io mi esprimo con un linguaggio un po' sempliciotto, ma insomma, ma che secondo me grosso modo rende l'idea. E poi invece c'è il centrocampista che per qualità e per attitudini cerca la giocata, magari anche di prima, ed è ovvio che abbia una percentuale che abbia un margine di errore superiore. Dopodiché, in questo finale di stagione, Aquilani, che aveva fatto bene, anche molto bene per un certo periodo, Aquilani non è certamente al meglio, e questo lo si vede. E questo io credo anche che potrebbe essere un suo limite, perché io ricordo che sono stato tra i primi anni fa a entusiasmarmi per le qualità che lasciava intravedere Aquilani e per certe sue giocate d'autore quando era ragazzo. Poi, andando avanti, un po' gli infortuni, e un po' forse non solo gli infortuni, mi sembra si sia un tantinello smarrito. Dunque, una vigilia di Coppa Italia, ma direi di sì, perché stasera credo che Palermo-Milan di stasera il suo bravo spessore ce l'abbia. Si parte, ricordo, dal 2-2 per il Milan, dal 2-2 dell'andata sul campo del Milan, quindi insomma, è un punteggio favorevole al Palermo, qui basta lo 0-0 o l'1-1. E allora sentiamo come intende affrontare e impostare questa partita Delio Rossi. Una squadra non è che se ha vinto è sazia, ma aspetterò il campione d'Italia, anzi ancora più sereni, perché non hanno niente da dimostrare. Ibra è il loro terminale offensivo, gli dà possibilità anche di alzare la palla, è un giocatore che gli dà anche alternative. Non giocando Ibra giocheranno in un'altra maniera, ma noi non siamo una squadra che può modulare in base a come giocheranno gli avversari. Noi terremo conto degli avversari, ma dobbiamo giocare con le nostre caratteristiche. Io sto con Gattuso, scrive Mario, ed è legittima la sua posizione, però le devo dire sinceramente, Mario, che è di minoranza, perché saranno scorsi, saranno passati sul display, che ne contiene 10 alla volta, non meno di 300 messaggi in questa mezz'ora, poco più da quando ho introdotto l'argomento, e direi che siamo intorno al 90% di invece di giudizi negativi, con particolare riferimento a tifosi del Milan. Ho detto tifosi, poi c'è quell'altra razza, e per esempio scrive un signore che si firma G. Peresson, scrive: la curva, non è un caso che la curva abbia inneggiato Gattuso e abbia fischiato Maldini nel giorno del suo addio, niente di più chiaro. E ho proprio paura di sì, niente di più chiaro di questo. Non voglio, insomma, è una questione di affinità elettive, no? Cioè, ci sono affinità elettive più, come dire, più automatiche tra gli ultra e Gattuso che non tra gli ultra e un Maldini. Marco da Ancona, buongiorno. Buongiorno signor Gigi. Una premessa di 5 secondi, 10 anche, che lei è l'unico che sa gestire il mondo del calcio e ne sa parlare a pieno diritto. Premesso questo, volevo dire una cosa sulla Juventus. Ne se ne è parlato tanto, però io volevo sapere la sua opinione. Cioè, non le sembra che il fatto che questa squadra continui, visto che sicuramente già avranno silurato del Neri dopo l'ennesima figuraccia di ieri sera, il fatto che negli ultimi 4 anni abbiano cambiato 5 allenatori, questo sarà il sesto, non si inizi mai un progetto? Temo anch'io che sia così, cioè temo, penso, per quanto riguarda la Juventus, che possa essere così. Non andava bene Deschamps, non andava bene Ranieri, non andava bene, insomma, non ne va bene nessuno. Adesso lo va bene Neri, la colpa è sempre dell'allenatore. Io credo che davvero così non si vada da nessuna parte, anche perché la Juventus non è il Milan, e poi chiudiamo, nel senso che il Milan forse gli allenatori dovrebbe cambiarli più spesso, visto che quando arrivano al primo colpo vincono il campionato, perché abbiamo riscoperto ieri che è successo a Viani, a Rocco, a quanti altri, a Sacchi, a Zaccheroni, no? Adesso ad Allegri forse avrebbe un senso cambiare allenatore più spesso al Milan, alla Juve non direi. Grazie a Mauro De Angeli in regia, grazie a Franco Piantanida in redazione, a domani.